Italia in controluce. Dopo anni di lavori e qualche difficoltà anche finanziaria, viene inaugurato domenica a Milano il memoriale per le vittime della Shoah, un memoriale che vuole ricordare le migliaia di italiani ebrei che partirono dal binario 21 per non tornare mai più. E allora noi ci colleghiamo questa mattina con il binario 21 e con la nostra Adriana Fracchia. Buongiorno Adriana. Buongiorno Piera, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Perché tu Adriana hai potuto fare visita in anteprima a questo memoriale, allora ti chiediamo di raccontarci com'è e quali emozioni deve averti suscitato. Una fortissima emozione, perché veramente colpisce allo stomaco vedere questi treni dove le persone venivano stipate come bestiame, e in questo luogo che attualmente è pieno di rumori perché i lavori fervono ancora, i lavori che sono iniziati nel 2009 e che stanno faticosamente procedendo perché i finanziamenti arrivano un po' a singhiozzo, dovrebbero, si spera, concludersi entro i primi del 2014, mancano ancora una piccola parte di finanziamenti che appunto si spera arrivino, in parte donazioni pubbliche e in parte donazioni private. È un luogo che colpisce veramente allo stomaco sentire i treni che passano sopra, qui nel ventre della stazione centrale dove partirono tantissimi ebrei destinati ai campi di sterminio e anche molti deportati politici destinati ai campi di concentramento. Ora sono qui con noi ospiti per questa prima presentazione alla stampa, di cui appunto io sono stata onorata, di cui faccio parte. Ci sono qui con noi il direttore del Corriere della Sera, nonché qui in veste di presidente del Memoriale della Shoah, Ferruccio De Bortoli, che, al quale chiediamo anzitutto come è nato il suo coinvolgimento in tutta questa iniziativa. Buongiorno a tutti, ma io fui coinvolto quando ero direttore del Sole 24 Ore e ricevetti una sollecitazione da parte della comunità ebraica, dell'Associazione Figli della Shoah, della comunità di Sant'Egidio. Questi sono i fondatori, insieme con il comune, la provincia e la regione, che hanno così reso possibile la costituzione della fondazione e poi la raccolta di fondi che è avvenuta in questi anni. Ecco De Bortoli, perché è importante per Milano avere un luogo simbolo come quello del Memoriale della Shoah lì al binario 21? Ma come si diceva prima, questo è un luogo che è rimasto per lungo tempo sconosciuto. Qui è cominciata la morte di tanti nostri concittadini. Questo è un luogo ancora originale della Shoah in Europa, eppure per tanto tempo non se ne seppe assolutamente nulla. È stato per lunghi anni un deposito delle ferrovie e solo a metà degli anni 90, grazie allo sforzo di alcuni studiosi e anche diciamo alle testimonianze dei sopravvissuti, si è ricostruito questo come il luogo che in qualche modo è stato l'origine, l'inizio della deportazione verso i campi di concentramento. Sì. Qui Milano scrive una pagina della propria storia che per tanto tempo è rimasta sconosciuta. Della nostra certo. Memoria. Adriana, ringraziamo il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, nonché appunto presidente del Memoriale della Shoah. Adriana, so che hai altri ospiti. Sì, abbiamo anche qui insieme a noi il vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah, Roberto Iarac, al quale chiediamo invece qual è stata la difficoltà di reperimento dei fondi per appunto creare questo memoriale che ancora deve essere concluso, ricordiamolo, i lavori non sono completamente conclusi e domenica verrà inaugurata questa prima parte dei lavori che sono stati finora realizzati con i fondi disponibili. Ecco, quali sono state le difficoltà maggiori? Ma basta far mente locale a quello che è stato l'anno di costituzione della fondazione, che è il 2007, e che è l'inizio della crisi, segna proprio l'inizio della crisi economica che si protrae ancora ai nostri giorni e quindi ci ha messo alla ricerca dei fondi nel momento peggiore che avremmo potuto trovare. Fortunatamente quella che è stata la disponibilità iniziale dimostrata dalla regione, dal comune di Milano e dal primo ente che ha voluto sostenerci, ente privato, che era un'impresa di costruzioni, siamo riusciti a costituire il patrimonio iniziale che ci ha permesso di dare il via ai lavori. Ecco Iarac, che emozione prova anche lei? lì al binario 21. Ma dicevo anche ieri a Liliana Segre, che ho incontrato in occasione di una manifestazione nel carcere di San Vittore. Una delle poche che tornarono. Lei è l'unica che è partita da Milano, residente a Milano, che è ritornata e che abita a Milano con il convoglio del 30 di gennaio del 1944, quindi è la vera testimone di questo luogo e dei fatti di questo luogo. Ieri le dicevo, dico, io ho fatto in questi 4 giorni il percorso tuo al contrario, perché io sono partito lunedì da Auschwitz, ero stato domenica e lunedì ad Auschwitz, sono venuto al memoriale per 3 giorni e mezzo per seguire i lavori, vedere il completamento delle opere necessarie, fino ad arrivare ieri pomeriggio a San Vittore. Quindi ho fatto certo il percorso opposto. Grazie Jarak, grazie mille, vicepresidente della Fondazione della Shoah. E a questo punto il tuo ultimo ospite, Adriana Guido Morpurgo. Buongiorno a tutto il vicepresidente, ancora per ricordare che uno dei filantropi, uno di coloro che hanno dato i fondi a questa iniziativa, a questo memoriale, è Edmund J. Safra, cui verrà dedicata la piazza antistante a questo spazio. Guido Morpurgo. L'ultima battuta la facciamo con l'architetto Guido Morpurgo dello studio Morpurgo De Curtis, al quale chiediamo, appunto, lui è l'artefice di questo progetto, quali sono state le difficoltà e quali sono stati i criteri ispiratori di questo progetto. Ecco Adriana, prima di questa domanda, che ovviamente è molto interessante, però volevo chiedere a Morpurgo, venendo al binario 21, cosa si vede esattamente, cioè in che cosa consiste questo memoriale? Il memoriale consiste di un grande spazio di circa 7.000 metri quadri, immaginate un grande rettangolo lungo 100 metri, largo 60 su 2 livelli con altri 1.000 metri quadri al piano interrato, si entra, si attraversano queste lunghe campate in cui sono previsti una serie di allestimenti che ci accompagnano in un percorso che ci porta fino alla parte più interna, che è quella proprio dei binari da cui sono avvenute le deportazioni. Quindi si potranno, come dire, passare delle tappe in cui dapprima si viene informati sul perché di questo luogo, sulla sua identità e sulla sua storia, si assisterà a delle testimonianze videoregistrate che avverranno all'interno di stanze delle testimonianze, cioè sono delle macchine, sono dei cubi di metallo che ancora in questo momento non sono presenti nel memoriale, ma che verranno realizzati successivamente, per poi passare alla zona dei binari dove appunto è installato il muro dei nomi e dove c'è questo luogo della riflessione che compie, diciamo, il percorso. Dopodiché il visitatore potrà usufruire delle attrezzature che sono in corso di completamento, tra cui la biblioteca specializzata per 45.000 volumi, un auditorium per presentazioni eccetera, e altri spazi legati alla didattica e al funzionamento di questo. Sì, perché insomma è anche un luogo destinato anche a vedere la visita di tanti studenti, si spera, di tante scuole. Insomma, dicevamo, la prima generazione, nel genere spettacolo sentivamo poco fa, la prima generazione, quella dei ragazzini di oggi, che non hanno un nonno che possa raccontare quei fatti, quindi insomma diventa ancora più importante. Io ringrazio tantissimo la nostra Adriana Fracchia per averci raccontato le emozioni di questo nuovo memoriale e i suoi ospiti che ce l'hanno anche descritto, ci hanno descritto come è arrivata a Milano ad avere finalmente un memoriale per la Shoah. Adriana, grazie mille. Grazie a voi, appuntamento per chi vuole venire il 27 all'inaugurazione alla mattina con tanti ospiti. Domenica, nel giorno della memoria naturalmente. Grazie, Memoria, esatto. Grazie Adriana, grazie e Italia in Controluce si chiude qua.